Le conservo tutte e per non soffrire un gran dolore non le ho distrutte, le leggo ancora. Quante belle frasi mi scrivevi, erano bugie che dicevi. Io t'amavo mentre tu mentivi senza pudor. Lettere d'amore, gelosie mi fanno soffrire perché penso a chi non torna più. Lettere d'amore scritte per inganno, io vi rileggo ogni dì, lusingandomi ancora. È passato da vera, diceva addio, non t'amo più. Questa verità che tu hai scritto, se sapessi il male che m'ha fatto, e se il nostro amore ormai distrutto, sei stata tu. Lettere d'amore, siete cari al mio cuore.